Va bene, cominciamo. Ciao a tutti. Allora, questo è il corso base di GNU Linux, che è tradizione che avvenga ad ogni ACMeeting come diciamo, porta d'entrata anche per chi si fosse avvicinato all'ACMeeting, non perché già caro e perché deve presentare delle cose con i suoi amichetti, ma semplicemente magari perché è curioso. E nello scoprire che vengono utilizzati dei sistemi GNU Linux, magari desidera usarli anche lei o lui e magari vuole qualche indicazione di come fare. Dunque, scopo di questo corso è di essere quello. E dunque vorrei anche chiedervi che tipo di pubblico abbiamo. Avete già usato GNU Linux? Sì, tutti. Dunque, perché Cosa ci cosa fai volete da qua? noi? Volete dei consigli? Sì. Vabbè, allora se ne parlerà un po'. Una piccola premessa, l'unica vignettina che vedrete era semplicemente per ricordare quella vecchia questione insieme alle guerre puniche e altre questioni del come mai si dica GNU Linux, GNU Linux e non solamente Linux. È diventato d'uso comune chiamare semplicemente Linux l'insieme dei pacchetti, diciamo, che compongono il sistema operativo distribuiti in maniera arbitraria in una delle infinite possibili distro, ma va ricordato che l'intero sistema, l'intero ecosistema è GNU, e GNU significa GNU is not Unix, perché gli piaceva così, anche per ricordare che non fosse appunto Unix. Linux è solamente, tra virgolette, il kernel, e dunque l'intero ecosistema, quando ha cominciato a funzionare nella seconda metà anni 90, se non ricordo male, sì, cioè Linux cos'è, 94, 93, è stato chiamato GNU Linux perché era l'unione dell'intero ecosistema GNU con il kernel Linux. Poi col tempo il kernel Linux ha avuto una sua rilevanza e addirittura ha brandizzato, cappellato praticamente il nome dell'intera sistema operativo fino a chiamarlo appunto comunemente si potrebbe dire solamente Linux. Di solito ci si tiene a dire no, GNU Linux, anche se rischia di essere un po' noioso perché che palle, GNU Linux, eccetera, eccetera. La vignetta mostra un ipotetico il signore con la barba è chiaramente Stallman, cioè il signore che ha inventato il concetto di free software, il quale ricorda a un giovane Robin come si dica GNU Linux e non Linux. E dunque, pensavamo, visto che l'idea sarebbe di parlare a un pubblico che desidera usare Linux, di ricordare di partire dall'aspetto, diciamo, politico. Nel senso che le motivazioni per usare un sistema operativo GNU Linux possono essere pratiche, possono essere di convenienza, cosa che è una cosa abbastanza nuova. 10 anni fa non avremmo mai detto è conveniente, è utile, è più meglio, nel senso è più comodo usare Linux. No, non è vero, usare Linux devi fare un casino di fatica e piangerai un po' e alla fine ce la farai, sarai affezionata ai tuoi sforzi e di conseguenza continuerai a farlo, ma senza aver fatto questi sforzi non sarebbe possibile. Le cose sono cambiate, decisamente. Diciamo oramai più o meno da quando è nata Ubuntu, è stata Ubuntu un po' a buttare fuori questa cosa. Ci siamo neanche presentati, io sono Dan. Io sono Cutro. Veniamo da Milano, da una club che si chiama Unit. A proposito, allora, la club Unit è giovane perché ha solamente un paio d'anni e dunque ci sembrava giusto venire alla ACMeeting e fare il corso base di Linux, che nessuno vuole fare. E invece pensiamo che possa essere divertente. Diciamo, sì, è nato probabilmente con Ubuntu. Nel senso che Ubuntu, entità commerciale, si sente bene se ci smezziamo così il microfono o faremo meglio proprio a muoverci? Facciamo meglio a muoverci. Così, così. L'ho spento, no? Vabbè, ci muoveremo verso il microfono. E dunque, Ubuntu sarà un'impresa commerciale. Cioè Ubuntu è l'ideazione di un signore, se non sbaglio, sudafricano, il quale ha deciso di utilizzare tutto il patrimonio che c'era di software libero, pacchettizzarlo in una distro, con lo scopo di essere estremamente funzionale ed efficace ed anche commerciale, nel senso che Ubuntu la strategia che hanno adottato è non si paga la distribuzione, si paga il supporto della distribuzione. Poi all'interno dei pacchetti inseriranno anche programmi a pagamento, si sono linkati a un certo punto con Amazon, infatti tipo sarà capitato anche a voi magari che usate Ubuntu, a un certo punto vi trovate la pubblicità di Amazon mentre stai scaricando qualcosa, smetti di usare Ubuntu, più o meno è diventato così, a meno che Amazon non ti faccia comodo, ti piaccia per qualche motivo. E dunque, se tanti anni fa usare GNU Linux era una, diciamo, chiamiamolo una sbatta, da Ubuntu in poi ha fatto il favore di, investendo molti soldi, molti programmatori e molto, di fornire una distro assolutamente facile da utilizzare e anche efficace, nel senso che non essendosi fatti problemi sull'usare solamente software libero, ma usando anche software open source e usando anche pezzi di software proprietario, gliene batteva più o meno il cazzo, cioè nel senso lo scopo era che funzionasse, semplicemente, ecco che Ubuntu riuscirà in effetti ad ottenere una distro estremamente funzionale, con qualche stringa attached che può essere un po' noiosa dal punto di vista politico, etico, eccetera, eccetera. Fatto sta, Ubuntu adesso fa il suo viaggio, però per quello che mi riguarda personalmente direi è storia, nel senso che non mi interessa più. La domanda potrebbe essere dunque, usare un sistema operativo GNU Linux adesso è facile quanto andare a scovare una distro, cioè prima probabilmente individuare qual è la distro, visto che hanno caratteristiche diverse, sarebbe opportuno dirci quale distro ha quali caratteristiche e a chi si avvicina. Dopodiché individuarla, scaricarla, verificare il filettone che si è scaricato, masterizzarlo su un CD alla vecchia maniera o su una chiavetta USB, dopodiché procedere all'installazione. Oppure avere qualcuno che già ha fatto questo percorso e che semplicemente ti condivide lo stesso filettone e te lo installi. L'utilizzo di GNU Linux adesso è paragonabile, se non addirittura più semplice, forse, di alcuni sistemi operativi. A me è capitato di usare Windows 10, è vero che non usando Windows più per un po' di tempo perdi l'abitudine, insomma non sai più come fare, però quando ho visto Windows 10 ho fatto veramente fatica a fare qualcosa, cioè tipo l'ho trovato estremamente noioso. Tu entra quando vuoi. Invece per esempio prendendo l'abitudine per esempio usare, che cavolo ne so, XFCE4, per dirti che è una piccola parte che può essere trasportabile in ogni distribuzione, in ogni computer che ci accompagnerà nel corso della vita, si possono prendere alcune abitudini che poi si ritrovano facilmente. E da un punto di vista di qualcuno che non l'avesse mai visto prima, cito FXC4 giusto per citarne una, è abbastanza semplice da usare, ci sarà una tab che si alza con i programmini che escono a freccetta, sotto c'è un cosa che non mi ricordo più forte, non vorrei disturbare Ginox di là. E dunque avrai sotto un pannellino, diciamo che il lavoro è più che altro imparare quali sono i nomi dei programmi, delle applicazioni, del software equivalente a quello che faceva quello scopo in un altro ambiente. Cosa che è stata superata, per esempio, in un percorso che anche quello sarà una quindicina d'anni, quando si cominciava a dire cominciate a usare software libero o a sorgente aperta sul vostro computer proprietario. Dunque usate Firefox su Windows, usate, all'epoca c'era OpenOffice, usate eccetera eccetera, usate Thunderbird, perché così quando succederà un giorno che ti si rompe il computer e vuoi o non ti si rompe o semplicemente desideri cambiare il sistema operativo, almeno avrai dei punti di riferimento che ti porti intatti. Per esempio, se già su Windows usavi Thunderbird come client di posta, nel momento in cui dovessi migrare a Linux non ci farà trauma, avrai il tuo stesso Thunderbird e funzionerà esattamente nello stesso modo. Faccio una pausa, piegato, così penso. A come andare avanti. Il free software. Vabbè, fai tu questa vado, parte qua. Vabbè. Sapete già tutti, però ve lo diciamo lo stesso perché siete qua, siete venuti per sentirlo, che cosa sia il free software e che cosa abbia di diverso per esempio dal open source o a sorgente aperta. Basicamente quel link è molto carino perché lo spiegherà in italiano e dal punto di vista filosofico-politico più che pratico, però basicamente il software libero è un software che ti dà quattro libertà, la libertà zero che è quella che ti dà qualunque software, cioè di fare ciò che vuoi con quel software, per esempio se io voglio ritoccare una foto piuttosto che aggiungere una scritta sopra, questa cosa non me lo impedirà neanche un software proprietario come potrebbe essere Photoshop, non si metterà a discutere su che cosa ci voglio fare, su quale foto voglio ritoccare o su che scritta voglio mettere, insomma non c'è il correttore automatico di bestemmie per ora, Photoshop. Dunque questa viene chiamata libertà zero. La libertà 1 è, adesso vado a memoria, libertà di copiare, libertà di distribuire e libertà di modificare. Perciò libertà 1 sarà la libertà di copiare un software, dunque di duplicarlo, cosa che non hai col software proprietario, sempre con l'esempio di Photoshop, col cavolo che lo puoi copiare, almeno non legittimamente. L'altra cosa che abbiamo detto, distribuire vuol dire anche non semplicemente copiarlo a un amico ma ridistribuirlo all'interno magari di una distro, piuttosto che di, arriviamo alla terza, effettuare delle modifiche al software e di conseguenza poi magari distribuire ciò che hai modificato. L'obiezione antica era quando ciò viene detto magari a un pubblico qualcuno che si appresta a usare GNU Linux, è l'obiezione classica, a me che me ne frega, io non sono capace di modificare il software perché mai dovrebbe interessarmi questa cosa. La risposta classica è magari tu no, ma qualcuno per te lo potrà fare, vivi all'interno della comunità, se qualcuno lo fa per te ne trarrai vantaggio comunque. Dunque l'usare software libero ha delle conseguenze, diciamo, sulla tua comunità, non solamente per il proprio benessere, diciamo, o il proprio piccolo ecosistema informatico. L'open source, detta basica, l'open source ha solamente una delle tre caratteristiche che abbiamo detto, o meglio, neanche una delle tre, però, semplicemente offre la possibilità di accedere al sorgente del software, cioè non avrai solamente la versione, c'è un puppy, non avrai solamente la versione binaria del software, ma avrai anche a disposizione il sorgente, dunque potrai vedere cosa fa e potresti essere informato se quel software fa una porcata e non lo vorrai usare per questo. Ma questo non significa che potrai né copiarlo, né modificarlo e né tantomeno distribuirlo. Potrai solamente vederlo. E questo è il motivo per cui alle aziende l'open source piace, perché tu potrai vedere il sorgente e aiutarli gratis a risolvere i problemi che il loro software ha, perché è per quello che rendono pubblico il sorgente delle loro applicazioni, soprattutto. Esempi di software, per esempio, che usiamo comunemente e che sono liberi, LibreOffice è open source o è free software? Non mi sono preparato, me la sto domandando adesso. Firefox, per esempio, credo che sia libero, era open office che a un certo punto ha chiuso un attimino le cose. Firefox è libero, Thunderbird è libero. Firefox è open source. Ah no, è vero. Mozilla? Sì, nell'ambito dei browser siamo ancora al meglio che niente, cioè nel senso, bello che esista Firefox, perché se pensate a un mondo senza Firefox, sì è vero che cammino mille variazioni, ma altrimenti torni a Chrome o rinasce Explorer. Sì, bisognerebbe fare una lista, in effetti ho più in mente, però lato server c'è un sacco di roba che in realtà è software libero. Sì. Tutti il web server più usato al mondo che è Apache è software libero, il server di posta più usato che sono Postfix è libero. Lato client, non so, dovrei fare una lista. VLC? VLC credo sia libero libero. VLC è libero. Insomma, comunque ci sono delle VLC per vedere i video. È un player multimediale. Per vedere, sì. Filmati, eccetera, eccetera. GIMP è software libero? Sì. insomma, di roba ce n'è. Ci sono dei siti che raccolgono. C'era anche un CD, mi sembra, fatto dall'Università di Torino qualche anno fa, non so se lo fanno ancora, che distribuivano su un CD tutta una serie di software con licenza libera. No, vabbè, continuiamo, poi questi sono spunti. Quando diciamo software libero, si intende software che permette le tre libertà che abbiamo citato, copiare, distribuire e modificare, e la libertà zero, cioè fare ciò che vuoi con quel software. Questa tipologia di libertà viene confermata da una licenza d'uso. È la licenza d'uso che determina o che chiama, che legittimamente può far chiamare quel software libero. Di licenze d'uso che definiscono software libero ce n'è a bizzeffe, e ognuno potrebbe anche addirittura scrivere la sua, a patto che fornisca queste quattro libertà, dopodiché potrà anche specificare che il mercoledì vale qualche cosa di diverso, a patto che non infranga naturalmente le libertà iniziali. Ci sono anche licenze intermedie che sono a metà strada, che magari ti permettono di prendere un software, di modificarlo, e però ti permettono anche di magari redistribuirlo in forma chiusa. Mentre la GPL ti obbliga a redistribuire un sorgente che tu prendi, modifichi, lo devi redistribuire mantenendo la stessa libertà, alcune licenze ti permettono invece di prenderlo, modificarlo e poi farti il tuo prodotto senza redistribuirlo. Quindi succhi dal lavoro altrui e poi ti fai... GPL sta per GNU Public License, cioè è la tipologia di licenza inventata da GNU, cioè da Stallman, quello che dava il ceffone a Robin, e che ha... Scusate. E se facessimo così? Facciamo così. Ah sì, no, dicevamo, il GPL non è il carburante, ma è la GNU Public License, cioè è la classica licenza, ora arrivata alla 3 forse, nelle sue varie versioni, che definisce queste tre libertà. Ed è stata coniata, inventata, incentivata da RMS, Richard Marx Stallman, che era quel simpatico signore che nella vignetta dava un ceffone a Robin dicendogli è GNU Linux, non Linux, eccetera, eccetera. Un'altra cosa da ricordare delle licenze libere, cioè del free software, è che la licenza libera è una licenza virale. Sì, giusto dirlo. Se prendi un software libero e lo modifichi a tuo piacimento, gli fai fare delle cose che prima non faceva, non potrai licenziare questo software in maniera, non potrai farlo diventare proprietario, dovrà rimanere libero. Questo è quello che si intende per viralità di una licenza, vuol dire che si porta appresso delle caratteristiche che sono positive per la comunità, magari sono vissute come una sfiga dal singolo programmatore che potrebbe aver fatto un lavoro attaccato a questo. E questo è più o meno il pensiero di quelli che preferiscono l'open source, per i motivi che raccontavi un po' tu prima, insomma. Se avete delle domande, o se volete interrompere, o farci deviare della strada che, come avete visto, non è assolutamente predefinita, fate pure. Se no, noi continuiamo trick e trick. Distribuzioni. Dunque, se si è deciso di utilizzare software libero o open source, perché appunto un browser software libero non esiste, dunque dovrò per forza utilizzare Firefox, che è open source, troverò fortunatamente che ci sono genti, comunità, aziende, persone che si sono prese la briga di raggruppare un tot di software fino a comporli in quello che diventa un sistema operativo indipendente chiamata distribuzione, dunque distro. Ci sono, essendo software libero, perciò essendo libero e relativamente facile accorpare questi software fino a farne una distribuzione, ne esistono diversi, vengono chiamati sapori, o diversi sapori, cioè diverse mille colori, non so come dire, ne esistono tante versioni diverse. E dunque pensavamo che fosse opportuno citarne qualcuno, citando anche le caratteristiche che lo accompagnano, in modo che possano essere qualche parametro di scelta. Se abbiamo detto all'inizio, per esempio, Ubuntu non ci piace perché ha delle finalità commerciali che prima o poi saltano fuori e possono essere noiose, che cosa ci piace? Allora, volendo stare sulla massima usabilità, qua dicevamo cos'è il software libero, c'è tutto un pippone qua che... C'è tutto un pippone, dopo il pippone. Ok, però tagliamola così, secca. Ok, una distribuzione per esempio che è abbastanza simpatica si chiama Linux Mint. Linux Mint è simpatica perché è estremamente facile da usare. È estremamente efficace perché si porta dietro delle librerie di Ubuntu e dunque funziona, diciamo... open the box, scusatemi il termine scadente, cioè funziona subito. Può essere una buona scelta nel caso si voglia mantenere la compatibilità con il proprio vicinato. Per esempio, vi sarà capitato magari a un certo punto della vostra vita di cominciare a fornire voi degli strumenti tecnici o informatici ai vostri genitori, parenti, nonni o quello che sia. E di conseguenza a dover fare delle scelte per loro. E vorrete dargli probabilmente qualcosa di facile da usare, comunemente detto, o che non implichi, no, beh, adesso zio apri un terminale e scrivi, no, non puoi. E dunque dovrà essere essenzialmente un ambiente completamente grafico. Avete notato poi che abbiamo completamente saltato la parte terminale, cioè nel senso di linea comando, nel senso che oggi per usare Linux... più o meno non c'è bisogno necessariamente di sapere usare la linea comando, cosa che personalmente mi sentirei comunque di incentivare, nel senso che è un ottimo modo poi per magari risolvere piccoli problemi che graficamente possono essere molto complicati da risolvere. Però non è strettamente necessario. E dunque, mio virtuale nonno, o la mia virtuale nonna che citerò adesso, non avrà mai visto una linea comando e non ha neanche bisogno di vederla, non vorrei neanche affaticarla cercando di spiegargli tutto ciò, dunque gli darò un sistema operativo che potrà magari gestire autonomamente. La faccio amministratore, gli spiego che c'è una password, in questo modo se il wifi va giù e deve riattivarlo e il computer malauguratamente, perché è noioso, dice mettimi una password amministratore perché questa cosa la può fare solo un amministratore, mi deve montare un disco e non glielo monta, lei amministratore può mettere la password e farlo. Dunque, se io voglio essere, diciamo, compatibile con la mia deliziosa nonna, forse potrà essere simpatico che usi anch'io Linux Mint, così quando mi telefonerà dicendomi come si chiama lo sfondo scrivania, non le rispondo, guarda nonna, io uso FreeBSD e dunque sai, non lo so, guardatelo, cavatela da sola, ma se è lo stesso sistema che uso io, posso facilmente ricordarmelo, magari solo già saperlo. Ciò detto, Linux Mint richiede, come lo stesso Ubuntu, richiede molte risorse, dunque è utile da usare per qualcuno che ha delle risorse, dunque un computer non di più di 10 anni, di 5-6 anni fa, con un tot di RAM, magari 4 giga di RAM, eccetera, eccetera, eccetera. Se invece avete un computer antico che deve girare con la manovella, perché allora Linux Mint sarà impegnativo e difficile da usare. Però funziona. Comunque sulle distribuzioni in buona sostanza, a parte diciamo Ubuntu e Mint che sono un po' meglio dal punto di vista del riconoscimento dell'hardware, a volte con altre distribuzioni magari far riconoscere lo scanner o la stampante o alcune schede esterne può essere più complicato, queste in genere coprono un po' meglio lo spettro delle periferiche. Dopodiché per il resto in realtà quello che fa la differenza è l'ambiente grafico che si sceglie all'interno di una distribuzione, per cui io posso avere distribuzioni diverse ma quello che poi fa la differenza è l'ambiente grafico che uso in quella distribuzione, perché è quello che io vedo ed è quello che occupa le risorse. Per cui è sulla base di questo che io poi potrò e dovrò scegliere la distribuzione che voglio usare. Se ho un computer potente posso restare su Mint o Ubuntu o Red Hat, Fedora, quello che è. Vabbè, quello... Gli ambienti grafici sostanzialmente più famosi e più noti sono GNOME, che è quello usato da tendenzialmente Debian. L'int, l'int adesso cosa c'ha di default? Gnome. Poi c'è Gnome 2, Gnome 3, vabbè, casini. Poi c'è KDE, che è quello che era usato e che è ancora usato da quella che era Red Hat e Fedora. Debian offre la possibilità di avere XFCE, poi magari potremmo anche cercare degli screenshot di tutti questi. Cambiano le distribuzioni delle finestre, il menu, l'occupazione di memoria soprattutto, per cui se ho tanta memoria Gnome va bene, se ho un giga di RAM Gnome non va bene, è meglio usare XFCE. Ho meno di un giga di RAM, devo andare su qualcosa di ancora più semplice, una volta c'era FVVM. Ci sono distribuzioni apposite per chi ha meno di un giga di RAM, sono minimali, ma minimali nel senso dell'aspetto grafico, fanno tutto quello che fanno tutte le altre. Un altro distro allora di quale, che vi, del quale vi parliamo, che abbiamo testato per voi, come si diceva una volta, non è vero, abbiamo testato per i fatti nostri, però adesso ve la raccontiamo, è Bunsen Labs. Bunsen Labs è una derivata di CrunchBang. CrunchBang è una distribuzione che ha fatto un pazzo che si chiamava Core Nominal, e al quale gli andava di usare OpenBox, Tint e insomma di aggregare alcuni strumenti grafici per comporre un'interfaccia, e l'ha chiamata CrunchBang. CrunchBang è il crunch, è il quello che viene chiamato anche hash o hashtag, insomma il cancelletto, si dice crunch in gergo, e il bang è il punto esclamativo, che sono praticamente insomma, le iniziali del insomma è così che inizierà uno script, un programma insomma in bash. E CrunchBang ha due caratteristiche. Una è estremamente leggera. Usando OpenBox non hai desktop, cioè, o meglio, non hai le icone sul desktop. E dunque hai praticamente bottone destro, trac, esce fuori una sfilzata di comandi e ti scegli quello che e fai quello che dovrai fare. È estremamente leggera, ha come carineria CrunchBang dell'epoca che decidono di mettere dentro qualche driver proprietario, e lo fanno però un po' a ragion veduta, nel senso che i driver proprietari che metteranno dentro saranno quelli della scheda wifi, perché la maggior parte, quasi la maggior parte insomma dei laptop che vi troverete avranno probabilmente la scheda wifi, dovrà funzionare con dei driver proprietari. Perciò alcune distribuzioni che sono estremamente pure e rifiutano di veicolare elementi di software proprietario non le inseriranno nella distribuzione. Debian, per esempio, la famosa Debian, è una di queste. Sì. Però ti permette di aggiungere un repository, per cui ufficialmente loro non distribuiscono, però ti dicono se proprio ti servono noi comunque te li mettiamo a disposizione. Devi fare tu lo sforzo di abilitare l'utilizzo di sorgenti, non... Il che vuol dire praticamente che Debian la installi col cavo. Dopo che l'hai installato col cavo, installi il software, i driver della Wi-Fi, allora puoi staccare il cavo. Ma se la prima volta che provi a installarla tutta da Wi-Fi ti accorgi che... Ah, già. Non puoi. E quello che potrai fare, andrai con un altro computer in rete, ti troverai i driver, li metterai su un floppy, li porterai sull'altro disco, insomma, tirerai un po' di madonne e così facendo dirai che, ah, Linux Mint, che simpatica che era, ovviamente ti mettevano tutti i driver proprietari del mondo e di tutte le stampanti del mondo. Comodo sempre per la nonna, anche questo ho trovato, tipo la nonna c'ha una stampante che è un HP chip o un Epson Salcelo, e Linux Mint mi dice: ah, ho visto che lì c'è un Epson Salcelo, vuoi che installi i driver? Sì, grazie. Abbastanza veloce come tutto. Bunsen Labs dunque adotta una tecnica mista, diciamo, meno, non ha per esempio repository di Ubuntu dentro, ma ha solo repository di Debian, e praticamente hanno semplicemente customizzato un po' di cose. Customizzato nel senso che ti mettono OpenBox, che è questa interfaccia grafica a finestre ma senza icone sul desktop, estremamente leggero e funzionale e con colori molto scuri, dunque è minimale scura, cioè a chi piace Ah, trova CrunchBang. CrunchBang nel frattempo cambia nome e diventa Bunsen Labs, che è quella tra l'altro che sta usando questo computericchio qua, che ha un giga di RAM, e chiaramente Linux Mint non glielo faccio vedere neanche con la... da lontano. È comunque divertente vedere, se vi capita in rete ci sono, l'albero genealogico di tutto questo, perché ci sono distribuzioni che sono figlie di figlie, per cui ad esempio Mint è figlia di Ubuntu, Ubuntu è figlia di Debian. Debian credo che sia distribuzione primaria, cioè una delle primarie. Le primarie sono Debian, Red Hat, Slackware, che esiste ancora, e anche lei ha avuto diverse figlie, Gentoo. Gentoo è particolare perché vi permette di... mentre Ubuntu è particolare perché voi la installate e funziona tutto, ci pensa lei a darvi quello che vi serve sostanzialmente, poi potete aggiungere quant'altro, va bene, però vi installa già tutto quello che volete. Gentoo è una distribuzione particolare perché vi permette di scegliere pezzo per pezzo quello che volete e di compilarvelo, quindi è un processo molto lungo. È un po' come andare a comprare una cosa già fatta e come farsela da solo. Insomma, con Gentoo ve la fate da soli. Ci mettete tanto. Cioè ti compili da solo tutto? Sostanzialmente sì. Scegli tutti i pacchetti che vuoi e te li compili tutti. Ti fondi il computer anche? Ogni tanto. Lo fai andare di notte, quando la corrente costa meno. Ecco, abbiamo toccato un punto particolare nella decisione di quale famiglia distro imboccare. Una decisione di base potrebbe essere quella se tutti i sistemi POSIX, d'accordo, ma RPM, pacchettizzazione RPM o DEB. Quella è una scelta, fa buffo dirla così, ma è una scelta che determinerà tutto il vostro percorso in seguito. La pacchettizzazione stile DEB chiaramente deriva da Debian e dunque è quella che si porta indietro non casualmente tutti i tre sistemi operativi che abbiamo citato, sia Linux Mint che Bunsen Labs che la stessa Debian ovviamente. RPM invece è patrimonio di Red Hat. La quale è ancora libera, Red Hat? Non mi ricordo. Credo. Red Hat ha sempre da un ambito diciamo più aziendale come riferimento. L'ultimo dei tre che vi consigliavamo per la roba distribuzione è Debian. Debian viene chiamato il sistema operativo universale. Come caratteristica carina che ha è quello che effettivamente una volta che si è imparato a destreggiarci è utilizzabile sia su un laptop, sia su un fisso, sia su un server, sia su quel cavolo che vuoi. Se lo installi su un server probabilmente non installerai la parte grafica. Se le installi su un laptop invece sì, dammi tutta la parte grafica, dammi GNOME, forse adesso usano LXGDB, l'ultima Debian che ho visto usa LXDE. Di default? È leggera. Che è leggera e ha le icone, perciò alla fine Debian funziona benino. Sì, l'unico tra virgolette difetto di Debian è che non si porterà per esempio appresso i driver proprietari di una scheda wifi e perciò fai l'installazione con cavo, così quando ti chiede se vuoi installare i driver della scheda che avrà visto gli puoi dire tranquillamente sì e lui è collegato in rete e perciò lo può fare. Se invece non ce l'hai dovrai fare un'installazione offline e dunque provvedere in seguito. Andiamo un po' indietro, allora noi volevamo a voglia. Guarda, una curiosità, perché prima consigliavate a seconda tipo della RAM o di quanto ti si fonde più o meno il computer di fare una scelta. Allora io mi chiedevo, per esempio, nel mio caso io faccio una partizione perché per certe robe di lavoro devo usare Mac, tipo foto, video, così. E allora mi chiedevo, in quel caso in cui ho un computer solo e faccio una partizione in due e ci metto dentro, non so, Ubuntu, cosa ci posso mettere dentro per cui questa cosa possa essere più o meno sostenibile e io posso lavorare il più possibile in modo universale? Allora, no, il fatto che fai due partizioni non cambia niente, Nel senso che l'unica cosa, per chi non lo sapesse, un computer può avere dentro di sé due diversi o più sistemi operativi. Quando lo accendete potete fare in modo di scegliere di far partire uno o l'altro. Uno o l'altro vuol dire anche Microsoft Windows da una parte e Linux dall'altra. È molto comodo quando all'inizio, ovviamente magari uno ha Windows perché ha comprato il computer con su Windows, perché se non andate, ecco, è difficile, ma non è impossibile comprare un computer con su già Linux, o al limite vuoto. Però sono molte poche le aziende che vi danno questa possibilità, quindi 9 volte su 10 voi andate a comprare un computer, diciamo un portatile oggi, perché ormai i desktop capita di comprarli sempre più di rado, ci sarà su Windows sicuramente. Magari vi serve anche per lavoro, perché 9 volte su 10, a parte chi lavora in ambito informatico, lavora in aziende dove si usa il sistema operativo Microsoft, per cui magari vi interessa tenervi Windows. È possibile stringere lo spazio occupato da Windows e usare il resto dello spazio dell'hard disk per installarci Linux. Questo non comporta grossi problemi, perché ormai in termini di spazio un computer nuovo c'ha su come minimo 500 GB di spazio su hard disk, che vuol dire che potete destinare 250 GB a Windows e 250 GB a Linux. Quando parte uno ovviamente non parte l'altro, cioè o fate partire Windows o fate partire Linux. Poi si può fare anche che all'interno di uno parta l'altro, ma questa magari è un'altra soluzione di cui non parliamo adesso. Però non condividono le risorse, per cui se c'hai 2 giga di RAM o li usa tutti Windows o li usa tutti Linux. L'importante è che tu hai abbastanza spazio, ma una distribuzione Linux installata anche con tutta la parte grafica e tutto, con 30 GB ci sta. 30 GB è poco oggi con le dimensioni degli hard disk che ci sono oggi, quindi problemi di spazio non ce ne sono. Diverso se vuoi far girare un sistema operativo dentro l'altro, allora lì le risorse si sommano, quindi diventa più complicato. Puoi fare 3 partizioni, questo è molto comodo se uno passa magari da una all'altra spesso, perché magari usa una in certe situazioni e l'altra in certe situazioni. Ovviamente, allora, se tu lavori su Windows, puoi usare dei barbatrucchi per leggere la partizione Linux, quindi i dati li puoi leggere, ma devi installarti dei software apposta che Windows nativamente non ti permette di leggere dentro una partizione Linux. Linux invece, che non è così stronzo, ti permette di leggere dentro una partizione Microsoft, di un prodotto Microsoft. Però se ti serve avere la possibilità da tutti e due, puoi anche usare come opzione, soprattutto se hai tanto spazio, quella di farti una terza partizione. Sarà una partizione formattata a FAT, cioè il sistema operativo DOS, diciamo quello vecchio che tutti leggono e tutti vedono, e la usi come partizione di scambio. Sì, FAT ha dei suoi limiti sul nome del file, ha il suo limite sul fatto che quando va in crash il computer rischi molto più facilmente di perdere i dati. No, diciamo che Microsoft riconosce FAT, VFAT, che è la sua evoluzione un po' meglio perché magari ti permette i nomi più lunghi, e poi c'ha NTFS, che è il suo sistema di partizionamento, che però da Linux lo vedi, ma appunto Microsoft non riconosce ext3, ext4, cioè tutti i sistemi di partizionamento che usa Linux, che sono penso almeno una decina, e Microsoft non ne vede neanche uno di questi, si rifiuta di farlo. Però ci sono dei programmini che ti permettono di... tu installi il programmino e gli dici montami quella partizione lì, e la vedresti come disco aggiuntivo dentro Windows, in sola lettura. Oppure fai la penna. Però sì, eh, No, la cosa universale più semplice è FAT. Oppure puoi usare NTFS, perché comunque da Linux la vedi quantomeno. Cioè, se tu facessi una partizione NTFS, da Windows la vedi perché è NTFS, e Linux ti permette di vederla, di leggere e scriverci sopra. Quindi sì, potresti usare NTFS, forse sarebbe la soluzione più comoda. O anche usare una memoria esterna, che potrebbe essere appunto una chiavetta USB, sempre formattata FAT32. Sì, certo. FAT32 non sbaglio. Sì, nome file, 4 giga. Ma anch'io mi domando sempre, ma quando vedo, scarico un film che mi piace, vedo che l'hanno fatto di 4.1 giga, mi viene in mente, ma l'avete fatto apposta. Dica. L'abbiamo. Sì, sì. NTFS. NTFS è scrivibile, no? Da Linux senza problemi. Sì, sì. Ok. Che è stata una bella discussione. Se volete, però secondo me, nella mia personale esperienza, ma anche nell'esperienza della gente che ho visto, la doppia partizione su un computer con un sistema libero e uno proprietario, tradotto significa uso il sistema proprietario, poi ogni tanto lo avvio dalla parte del sistema libero, lo tampino un attimino, considero che i dati ce l'ho dall'altra parte e dunque poi riavvio dall'altra parte. Non so se la doppia partizione abbia effettivamente un ruolo. Cioè, tu ce l'hai fatta ad avere due partizioni e usarle con successo tutte e due? Non so, io quando ero passato a Linux mi ricordo che mi ero dato 6 mesi, mi sono detto mi installo Linux di fianco, ogni tanto l'accendo e vedo come funziona, comincio a migrare i dati della posta, del web, poi una volta che ho spostato tutto di là cancello Windows e via. Perché se no fai sempre fatica e hai sempre la tentazione di tornare indietro. Ma no, sì, ma certo, ma allora. No, la cosa buffa è che Linux, la storia di Linux è piena di guerre di religione sulle distribuzioni. La verità è che tutte le distribuzioni sono uguali, perché ti permettono di fare le stesse cose. Vedete, avete visto in giro delle persone con una maglietta con scritto Devuan? Per esempio, informazione da sapere, Devuan è una di queste distro, ma ha una caratteristica carinissima, infatti probabilmente se c'è in giro qualcuno con la maglietta Devuan dirà perché non l'avete detto, invece lo diciamo qua adesso. Devuan è una Debian modificata, nel senso che non usa l'odiato systemd, che è un'introduzione relativamente recente. Perché non vogliamo? No, non ci entrerei proprio. Sui motivi per cui devono. Allora, per due parole. Ci sono state molte critiche su come Linux fa partire i processi quando si accende. Cioè, tu accendi il computer, succedono un sacco di cose. Alcune compaiono a schermo, altre succedono nel silenzio. Ed è il processo per cui Linux fa partire una cosa, poi una, cioè fa partire tutti i sistemi che gestiscono il computer. Qualche anno fa un tizio molto antipatico ha deciso di sviluppare un suo sistema di avvio che si chiama SystemD, gli ha fatto fare un sacco di altre cose in aggiunta a quello, gestiva anche i log, insomma, l'ha fatto diventare un po' un carrozzone, che era antitetico rispetto al concetto di Linux, che ogni programma deve fare una cosa sola e la deve fare bene. Lui ha scritto un software che invece fa più cose, per ora le fanno anche abbastanza bene, ma si è attirato molte critiche, alcune di stampo tecnopolitico, cioè ad alcuni non piaceva il fatto che questo nuovo sistema fa partire un processo iniziale che se muore lui, muore tutto il computer. E soprattutto se viene bucato lui, di conseguenza viene bucato tutto il sistema. Per cui Debian, questo tizio molto antipatico, è riuscito comunque a imporre il suo sistema perché effettivamente tecnicamente ha dei vantaggi, che adesso non stiamo qui a discutere. All'interno di Debian c'è stata una spaccatura forte, perché una parte della community di Debian ha detto sì, ok, va bene, quel sistema lì è buono, quindi lo implementiamo. Un'altra parte ha detto no, quel sistema lì non ci piace per come è strutturato, pensato, per cui facciamo la nostra derivata da Debian, cioè prendiamo Debian ma gli togliamo questo systemd. Comunque ci sono qui almeno un paio di persone di Devon. Uno c'ha la maglietta, l'altro c'ha i ricci. Ciao, ti. Cos'è un processo? cioè, systemd è il sistema che gestisce l'avvio dei processi. Cioè tu a un certo punto devi avere qualcosa che fa fare al computer delle altre cose. Non è facile. Io sono un chimico, per cui non te lo so spiegare bene. Sì, i demoni sono processi, cioè allora come faccio, vediamo che demoni nel computer, in questo adesso non possiamo farvelo vedere, però ci sono tanti processi in esecuzione, ogni processo fa una cosa. Ad esempio c'è un processo che legge l'orologio e che ogni tot, il cron per chi sa cos'è, che ogni tot, ogni secondo controlla se deve lanciare qualcosa, quello lì è un processo che è lì. È lì fermo, legge solo l'orologio, sa che quando arriva una certa ora lui deve fare partire delle altre cose, e queste altre cose sono altri processi che partono, nel senso il cron sa che deve lanciare il programma che scarica la posta, quello è un altro processo che cosa fa? Contatta un server e scarica la posta. Ogni programma in esecuzione, voi allora quando noi lanciamo un programma, che ne so, Firefox, si apre una finestrella grafica. Sotto ci sono una serie di processi, tu non li vedi perché vedi solo la finestrella grafica, però ci sono un sacco di altri processi e demoni che fanno cose che noi non vediamo, che non aprono una finestra grafica, ma che però sono lì ad aspettare che noi facciamo cose per interagire con loro. Non so se mi sono spiegato, probabilmente no, perché... perché... Io faccio fare un passo indietro e tornerei alla narrazione che avevamo cominciato prima, che era quella del darvi degli spunti o raccontarvi quali distribuzioni esistono, perché dovrei prendere quella distribuzione piuttosto che un'altra, che differenze hanno e soprattutto perché dovrei fare tutto ciò. Allora, il motivo principale perché uno vorrebbe fare tutto ciò, qui entriamo in un ambito, è perché ne ha bisogno. Una roba carina, il motivo per cui c'è scritto qui così questa cosa, sapere di cosa si ha bisogno, sarebbe una roba molto utile, nel senso che nel momento in cui dovessi prendere un computer, un sistema operativo, è più comodo per me se so già che quel computer lo compro perché voglio ascoltare la musica, navigare il web e vedere i filmini su, che ne so, su YouTube e condividere i file MP3 con i miei amici, perciò avrò bisogno che abbia delle entrate USB per poterci attaccare delle periferiche e trasportarli. Se non so invece di che cosa ho bisogno, sarà più difficile scegliere. Dunque, anche nell'avvio del che distribuzione scegliere, eccetera, eccetera, farsi due domande sul che cosa si ha bisogno potrebbe essere, se non altro, un utile esercizio. Non mi ricordo. Ah, sì, vabbè. Vabbè, questa è una definizione di Stallman, per esempio, il software proprietario lui lo chiama soggiogante. che è un bel modo per significare gli effetti, diciamo, a lungo termine. Effetti a lungo termine, non so, sarà capitato a tutti, credo, a un certo punto di utilizzare un particolare software, sia perché lavorativamente si è trovati a usarlo, sia per passione, perché magari serviva a fare delle cose simpatiche, o perché ci si è trovati quel particolare computer sul quale quel software c'era già. Magari si è diventati, dopo aver scorso tutti i menu, magari aver letto l'help, il fottuto manuale, il simpatico manuale, e aver insomma, dopo aver studiato, ci si trova magari che arriva questo qui di turno, che dice: no, ma guarda, usa Linux che è bellissimo, vedrai, troverai GIMP e farai esattamente le stesse cose che facevi prima con Photoshop. Il problema non è solamente se GIMP sia efficace nei confronti di Photoshop, è anche che tutta la mole di lavoro che è stata fatta per imparare a usare, continuo con l'esempio di Photoshop, è un valore. E si è resti magari a volerlo ripetere o reiterare ogni volta che ci si trova un nuovo software, una nuova cosa. Ecco, questa è una cosa da considerare, qualunque sia la vostra età, diciamo, investire il vostro tempo nello studiare un software libero avrà l'indiscusso vantaggio che quel software ve lo porterete appresso fino a quando vorrete farlo, cioè nessuno verrà a togliervelo, né un sistema operativo né la ditta che lo fabbrica, ma sarà semplicemente una vostra scelta personale. Questa cosa è abbastanza simpatica, credo che alcune persone sia capitato, nella mia personale esperienza per esempio mi è capitato, di usare dei software che magari adesso sono assolutamente vetusti e che non consiglierei a qualcuno di cominciare a usarlo, ma io lo uso, che ormai sono 15 anni, faccio le mie stesse cose, ormai le dita si muovono così e sono contento così di usarlo. Potrebbe essere l'esempio di Moot piuttosto che Procmail o Fetchmail, cioè diciamo la suite di programmi, in questo caso a linea comando, che permettono di mandare o di ricevere la posta. E nonostante Thunderbird sia già da una decina d'anni bellissimo, contenga i filtri, possa fare tutto quello che fa Moot e anche di più, io non smetterò mai di usare Moot perché mi trovo bene e perché ho già investito per usarlo. Fortunatamente Moot è free software e non me lo toglierà nessuno. Questa è una piccola considerazione, diciamo, che a lungo termine piace ricordare sull'utilizzo del software libero, che non è soggiogante, appunto. Vado avanti. E poi c'era il discorso sbatta, cioè l'antico discorso del fatto: sì, ma è fatica. Ah, è fatica. Sì, certo, quasi tutto è fatica, si può fare in maniera... Ma a volte si possono addolcire le cose, nel senso che sia l'atteggiamento col quale si approcciano le cose può far diventare divertente delle cose che magari non lo sarebbero in partenza. Tenete conto che, per esempio, un ambito nel quale ci si trova spesso a parlare, a chiacchierare, sono quelli, non so, l'autodifesa digitale, piuttosto che la si può chiamare sicurezza, o la si può chiamare igiene digitale, come piace chiamarla a noi, e tante cose, non sono mai argomenti simpatici, divertenti, brillanti e colorati, sono estremamente noiosi, tanto quanto le assicurazioni, cioè non sai che l'assicurazione non è una cosa divertente, è estremamente noiosa e ti accingerai a studiare le polizze solamente perché ne hai bisogno e perché la RCA ci vuole per il motorino, e dunque dovrai prenderti qualche nozione, altrimenti l'avresti assolutamente evitato. Gli ambiti dell'autodifesa digitale hanno un po' questa caratteristica, a parte le persone che sono state traumatizzate per qualunque motivo per la loro assenza e allora hanno sviluppato l'idea dell'imparare a difendersi, raccontata a qualcuno che invece non ha avuto questo tipo di esperienza potrebbe risultare solamente noioso. Tutto questo per incentivare, abbellire e mettere due paillettes sul concetto di sbatta, cioè del fare fatica per fare qualche cosa può avere una buona conseguenza. E poi l'ultima frase era molto carina, appunto, che pensiamo che il frutto della... che la gioia sia il frutto della libertà, ma la libertà non è gratis. Credo che l'abbia detta Seneca. Io vado avanti così, visto che questi erano appunti pro memoria. Altre caratteristiche, e torniamo indietro perché abbiamo già parlato del cunedistro, però volendo inquadrare un attimino, cos'è una distro? Ce lo siamo raccontato. Avrò la scelta se usare la linea comando o meno, abbiamo già detto che in questo caso per un utilizzo nuovo di GNU Linux non è necessario. il ragionamento se essere compatibile con i propri vicini può essere, appunto, se mi stizia usare OpenBSD, buon per me, magari funziona bene, ma non è detto che lo possa far usare alle persone che ho vicine, e poi prima o poi mi troverò nell'impasse di non essere in grado magari semplicemente di aiutarli. Debian non è chiamato sistema operativo universale a casaccio, ha appunto queste caratteristiche, nel senso che io potrei installare sempre la nonna virtuale di cui parlavo prima, una Debian dove ci aggiungo GNOME 3 perché ha tanta RAM e mi va di fargli fare tutto, e io invece userò una Debian più minimale perché così mi va, e però quando mi chiederà aiuto saprò rapportarmici in qualche modo. Altre caratteristiche da ricordare, abbiamo parlato della distinzione tra software e libro, che non è una distinzione, sono due cose completamente diverse. Il casino è nato... Allora, il software libero come definizione nasce nell'84, la definizione di Richard Max Stallman e lo sviluppo delle licenze libere, la GPL, eccetera. Il termine open source invece è del 91, lo coniò Eric Raymonds, che è un informatico, anche lui americano, di carattere politico decisamente diverso. Raymond è un libertario, forse dovremmo dire libertariano, cioè di quelli che... sì, è decisamente libertariano Raymond, cioè uno di quelli che, per esempio, ti dirà libertà di usare una pistola e di portare con me una pistola, in quanto il governo stesso potrebbe diventare opprimente da un momento all'altro e il cittadino deve essere in grado di difendersi. Questa è la costruzione libertariana di personaggi come Raymonds. E Raymonds scrisse un trattatiello di una decina di pagine che si chiamava La cattedrale e il bazar. In questo trattatiello definiva tutta l'impalcatura del software libero di Stallman come un'impalcatura di tipo, come posso dire, non accademico, ma addirittura religioso nel senso infrastrutturale, cioè lo vedeva con un'estrema rigidità. Mentre lui preferiva, per esempio, il fatto che la licenza GPL sia virale l'ha sempre resa storicamente ostica nei confronti delle aziende, diciamo, le quali mal sopportano l'idea di magari scrivere un software e poi che qualcuno possa prenderlo, variarlo e a sua volta distribuirlo. Preferiscono averne una proprietarietà molto più implementabile. Ecco che Raymond introduce il concetto di open source, diciamo strizzando l'occhio alle aziende, dicendo: guardate che è un mondo molto più variegato, la serietà, diciamo, quasi monastica di Stallman non ci piace, lo paragona a un sistema tipo cattedrale ed evoca e invoca un sistema che lui chiamerà stesso quello del bazar, cioè del mercato, cioè molto più snello, libero e libero nel senso libertariano, e dove vale tutto, diciamo così. E da lì in poi ci portiamo appresso Open, poi come sapete è diventato Open è diventato anche un chiaramente un brand, cioè è diventato una buzzword, perciò troverete da Open Society, vabbè, Open Society è anche un'organizzazione, ma troverete da Open Chair, Open City, Open Comune, Open Cassa, Open PC, Open qualunque cosa, Open Data, Open questo e Open quell'altro. Chiuso sull'Open, RPM contro Debian, contro .deb, anche questo potrebbe essere un criterio, cioè... Decidete, se volete approcciarvi, cosa, se diciamo entrare nella famiglia Debian e ci rimarrete con tutte le semi-infinite variazioni che ci sono, o in quella di Red Hat, che è RPM. A meno che non ci siano dei seri motivi per cui dobbiate usare la pacchettizzazione RPM, non ve lo consiglierei. Infine, un'altra considerazione, monolite contro casino, era semplicemente un appunto per ricordare che, per esempio, non so, il mondo OpenBSD, o FreeBSD, o NetBSD, con un tot di varianti esistenti, che è un mondo ultimamente, visto che si è detto ma Linux adesso è diventato facile da usare, anche OpenBSD e FreeBSD sono diventati facili da usare. C'è una distribuzione, per esempio, di FreeBSD, se tu ti ricordi me lo dici, mi fai una cortesia, in questo momento c'è un buco, però ci sono delle distribuzioni di FreeBSD che sono già pacchettizzate con in forma grafica e che sono estremamente semplici da usare. E dunque usare FreeBSD potrebbe essere semplice, ovviamente vorrà un computer abbastanza potente, però anche lì io non lo darei alla nonna, però vedete voi, insomma. caratteristica, no, la nonna, no. Caratteristica di, del mondo OpenBSD, FreeBSD o NetBSD, detta proprio stretta stretta, è che nel mondo Linux, GNU Linux, le cose si possono fare in tanti modi. Quasi la stessa cosa, cioè sì, potrei usare ifconfig, ah, adesso me l'avete tolto, non c'è più, allora userò IP per sapere qual è il mio indirizzo locale, per esempio. Dunque già ho due modi diversi, ma in realtà ne ho tantissimi altri. Ecco, sul mondo invece OpenBSD e FreeBSD di solito le cose sono molto più monolitiche, si fanno in quel modo lì, il che può essere rinfrescante per alcuni e noioso per altri. Ok, e allora, visto che siamo la parte a base di Linux, come si fa a installare una distribuzione Linux? Beh, prima decidi di cosa hai bisogno, dopodiché, visto quello che hai bisogno, adatta i tuoi bisogni a quello che puoi trovare, perché non è detto che troverai esattamente quello che fa per te, però la cosa che è più simile, e come elementi da tenere in considerazione ci saranno sia quelli appunto diciamo politico-etici, che potrebbero essere quelli del software libero, o quelli anche semplicemente di compatibilità con il tuo ecosistema, col tuo vicinato, cioè mantenere rapporti con la nonna e magari installare sia a lei che a te la stessa cosa. E infine, mi ricordo più, delle valutazioni di... mi sono perso. Vabbè. E dunque veniamo al come farlo. Una volta che... scusate, e l'ultima era appunto relativa ai propri bisogni. Cioè sapere di che cosa si ha bisogno può essere sicuramente un ottimo aiuto per trovare qualche cosa di utile. A questo punto, una volta individuato qual è, poniamo che sia Debian la nostra cosa, andrò su debian.org, cito Debian solo perché mi ricordo a memoria l'indirizzo, e vi scaricherete una ISO. Se avete un computer relativamente moderno sarà probabilmente M64, dopodiché la masterizzerete su CD o probabilmente su DVD, perché sono più grosse adesso, non ci staranno su un CD, o lo metterete su una chiavetta USB. Ne verificherete l'integrità, verificherete la checksum. Sì, dopodiché una volta verificata la checksum, che è un passaggio diciamo noioso, che serve per essere sicuri che state scaricando una ISO che non è stata modificata da qualcuno. Cioè i distributori di software in genere pubblicano i checksum, che è quella stringa, l'ultima riga che vedete, illeggibile, che è un codice, che è una specie di firma, diciamo, dell'eseguibile che state scaricando. Se combacia con quello presente anche sul sito, diciamo che avete una certezza in più che il software non sia stato modificato. Poi in realtà non è un meccanismo di verifica sicuro al 100%, sarebbe meglio una firma GPG magari. Ecco. Rispetto alla scelta della distribuzione, se parliamo di Debian è abbastanza semplice scegliere, dovete solo scegliere la versione tra 32 bit e 64 bit. Se non sapete che processore avete, potete scaricarne una, se la mettete nel CD e non parte avete sbagliato la versione e quindi scaricate l'altra. Nel caso invece di Ubuntu, ad esempio, non c'è solo magari una versione scaricabile, ma ce ne sono diverse perché hanno un sistema di rilascio particolare. Per cui Ubuntu più o meno fa un rilascio ogni 6 mesi, mi pare. Chiama le versioni, adesso sono arrivati alla 19, esce la 19.01 e ti dicono la 19.01 è dispari e quindi sarà supportata per 2 anni. Poi uscirà la 20, la 20 invece sarà supportata 4 anni, come la 18. Quindi dovete scegliere se prendere l'ultima versione che è uscita, che però sarà supportata magari di meno, o prendere la versione più vecchia di 6 mesi o di 1 anno, che però sapete che avrà un supporto da parte di Ubuntu che durerà 4 anni. Lì dipende, ovviamente una versione più recente, poi ovviamente voi la scaricate e comunque la potete aggiornare, cioè il supporto per 4 anni vuol dire che per 4 anni Ubuntu rilascerà per quella versione lì tutti gli aggiornamenti del caso, di sicurezza, eccetera, eccetera. Sinceramente rispetto ad altre distribuzioni tipo Mint non so se usa lo stesso approccio di Ubuntu o ok. Comunque una cosa importante è che una volta che installate una distribuzione, quello che conta è che voi facciate gli aggiornamenti sempre, in modo da evitare problemi più grossi. Oh, un'altra cosa, abbiamo come a club ci siamo divertiti a un certo punto a fare, allora è successo che a un certo punto non l'abbiamo neanche deciso noi, ce l'hanno chiesto, di fare un crypto party. Allora, nel fallo ci siamo posti il problema di lasciare una piccola guida con qualche appunto alla gente che veniva a fare il crypto party, perché scrivere alcune cose come quelle che vedete qua dietro può essere un po' noioso, dunque alcune cose potevano essere già scritte. È finita che abbiamo cominciato a fare un opuscolo, nel frattempo stavamo testando il server Git, ci piaceva scrivere in Markdown, insomma, tra cosa nasce cosa, l'abbiamo lavorato collettivamente quello che in quel momento era una roba di due pagine e che chiamammo criptolibretto. Il criptolibretto nel tempo è cresciuto, perché ci è piaciuto di aggiungere cose. È cresciuto in maniera un po' schizofrenica, nel senso che all'inizio tendeva a dare ottimi o semplicemente modestamente buoni consigli, o semplicemente consigli sul come tutelarsi o come ci piaceva chiamarlo appunto nel credito libretto, così viene chiamato quella che chiamavamo igiene digitale, nel senso che se qualcuno aveva detto a un certo punto mi sono stufato di spiegare alla gente che se si butta dalla finestra si fa male, chiamiamola semplicemente igiene e non più autodifesa. Comunque quella era, e alcuni consigli erano molto pacati, carini, diciamo invitavano al buon senso o semplicemente facevano notare che tipo guarda che lì c'è una botola piuttosto che guarda che là c'è un burrone. Poi ho avuto un momento schizofrenico dove alcune cose sono state, insomma, a un certo punto ci sono state inserite alcune cose che non sono più tanto di base, ma possono essere considerati trucchetti. Altra cosa, un utilizzo che è diventato, a un certo punto è stato utilizzato come bigino pro memoria per qualcuno che, non so, deve fare un corso di autodifesa e dice ok, con il libretto ho almeno l'indice, mi ricordo quali sono gli argomenti da toccare e qualche riferimento su come è stato toccato. Questo è il crypto libretto di cui stiamo parlando, in questo momento è arrivato a 24 pagine e accattatevillo, in quanto il suo acquisto sui 2 euro o donazione libera ci serve a pagare il server e dobbiamo, adesso ci mancano 30 euro, quindi vendiamo 15, siamo a posto. Questa era la piccola premessa prima che finisse tutto e adesso poi ci dimentichiamo invece la cosa che è più importante, insomma, cioè siamo qua a posto. Però, ecco, ve lo citavo, collegamento mio neuronale era perché questi appunti e queste cose, le slide chiaramente saranno a disposizione, però sono meglio raccontate magari sul libretto. Questo è un esempio a linea comando, un po' secco, ma è il modo più veloce, si sarebbe molto più lunga a spiegarlo in screenshot video, su come sapere dove è stata montata la chiavetta, e una chiavetta X che sarà cancellata e di conseguenza buttare con DD sulla chiavetta la distribuzione scelta. Dopodiché, stiamo sempre facendo il corso base di Linux, come installo Linux. Dunque, dopodiché, dopo che l'hai buttato sulla chiavetta, tenendo sempre la chiavetta infilata, riavvia il computer tenendo premuto F12. F12 non funziona, prova con ESC. ESC non funziona, F2. F2 non funziona, prova F5, F7, F1, F9. Uno di questi funzionerà. A un certo punto entrerai finalmente nel BIOS. A questo punto sei entrato nel BIOS e gli domanderai ma perché non mi hai avviato direttamente dalla chiavetta USB? E il BIOS risponderà: non lo faccio perché non sono abilitato a farlo. Ah, problema, dunque devo prendere un CD. Oppure ti dirà semplicemente non sono autorizzato, ma mi puoi autorizzare qui ora. Scenderai nel menu del BIOS a seconda di quel modello hai di computer, dunque che BIOS sarà, e gli dirai sì, per favore riavvia prima dalla chiavetta USB che dal disco, perché sennò mai riuscirò a cosa. Purtroppo rispetto a tanti anni fa, quando compravi un computer ti davano anche un manuale, oggi compri un computer e non c'è niente. E quindi non ti dicono neanche qual è la combinazione di tasti per cui puoi accedere al BIOS. In genere però sul sito del produttore questa informazione dovrebbe esserci. Il manuale in PDF è sul sito, non ve lo stampano. Però per trovare la combinazione di tasti per entrare nel BIOS magari può essere utile dargli un'occhiata per non impazzire a schiacciare tasti a caso, a capire qual è quello che vi fa entrare. Cosa succede al disco? Il disco fa una brutta fine, viene cancellato, chiaramente. E qui volutamente abbiamo escluso il discorso della doppia partizione, del doppio sistema operativo, ricordando, come nelle canzoni di Elio Storie Tese, doppio manager, doppio camerino, doppio problema, è tutto molto più complicato, insomma, il sistema del doppio. Non so se avete mai provato ad avere due chiavi GPG, ne uso una per quello e una per quell'altro, i problemi aumentano. Ah sì, mentre installerò il sistema operativo, a un certo punto la simpatica distribuzione mi ha detto: ma vuoi tu crittografare il disco? Magari me l'ha chiesto in questi tempi, magari mi ha detto: vuoi crittografare solo la home o vuoi crittografare tutto il disco? Magari ha detto semplicemente: vuoi che Lux faccia prendere possesso del tuo computer? Alla domanda se crittografare o meno un computer, ovviamente la scelta sta a voi, ma se il computer è un portatile, un trasportabile, cioè se non è solidamente ancorato al suolo, probabilmente è una buona idea, perché doveste perderlo in treno o doveste smarrirlo in qualunque circostanza, almeno saprete che avete perso lo strumento ma non i dati che conteneva, e quelli li potrete, probabilmente avrete un backup, li potete recuperare. Dunque sì, crittografate i dischi. Tanto se il computer... Non costa niente, nel senso che non è che le prestazioni del computer peggiorano in modo evidente, non ve ne accorgete. L'unica cosa è che se vi identificate la password non entrate più. E questo computer qui c'ha un giga di RAM e il disco è crittografato e le slide ce la sta facendo vedere. Quattro nozioni di igiene digitale, anche tra quelle che sono scritte lì, la più banale, visto che abbiamo presentato appunto il corso base di GNU Linux, non voleva essere sull'efficacia o semplicemente sulla convenienza, diciamo, dell'usare GNU Linux, ma voleva essere, come dire, una scelta motivata, ma c'era anche scritto igiene digitale da qualche parte. E dunque, igiene digitale potrebbe essere questo, per esempio. Avere la nozione di non usare mai la stessa password su diversi servizi, perciò usate diverse password e mi raccomando usate caratteri buffi. Non usate la stessa password, usate un password manager. Sembrerà banale dirlo, ma ci sono dei software, KeePass C è uno di questi, o KeePass X che è il suo progenitore. Sono dei password manager, cioè sono dei piccoli software che permettono di fare un piccolo database che ti salvi come un file su disco, sul quale con una sola password di sblocco potrai avere un elenco di tot infinite password che ti dovrai ricordare. E questa può essere una tattica molto comoda per non essere obbligati a ricorrere a delle password solamente memorabili, che restringerebbe molto il campo delle password che posso usare. Esistono anche le passphrase. Fate caso che magari il servizio che usate, lo chiamo volutamente servizio nel senso che se parliamo di Google piuttosto che di Facebook o di qualche cosa, sono dei SaaS, cioè software as a service, cioè è un software residente sul computer di qualcun altro che voi state usando come servizio. Se è gratis probabilmente è perché hanno un vantaggio che è rappresentato dall'utilizzo che ne fate o dai dati che gli lasciate. Ciò detto, se usate questi servizi o anche semplicemente la password di sblocco del vostro computer o qualunque altra password vi capiterà di usare e di decidere, fate la prova, potreste scoprire che esistono che il sistema supporta delle passphrase, cioè delle frasi di passo. Ok, ricordavo che c'era una slide. E dunque ho scritto due esempi di quelli da non usare per forza perché sono stati già usati qua, però è uno dei modi per ricordarci come una passphrase possa essere estremamente facile da ricordare. Dunque pigliatela, una frase di un libro che vi ricordate, che saprete ritrovare, piuttosto che la vostra canzone preferita. Nel criptolibretto troverete un po' di informazioni su quella che abbiamo chiamato navigazione consapevole, che praticamente era l'utilizzo dei profili, dei containers, per chi non li conoscesse può essere una buona introduzione, o anche semplicemente di alcuni add-on. O poi c'è una parte di navigazione consapevole, una parte di navigazione non mi ricordo più, e poi la parte di navigazione paranoica dove si parlerà di Tails, basicamente. e anche alcuni consigli che c'è tutta una parte complicata e che non è tanto difficile magari usare un sistema GNU Linux, difficile è essere compatibili con tutto il cumulo di dati che ci portiamo appresso da un'altra vita. E, dunque, se avrò già usato per esempio Thunderbird su un computer dove uso Windows, potrà essere relativamente semplice, sposterò 4 dati nel posto giusto, riaprirò Thunderbird nel nuovo ambiente e plausibilmente funzionerà tutto e manterrò anche l'archivio di quello che avevo creato precedentemente. Se invece vengo da Outlook, per fare un esempio classico, e devo migrare a Thunderbird, avrò magari tutta una sorta di problemi, perché Outlook non c'ha voglia di farmi migrare da un'altra parte, perché ovviamente è contento di farsi utilizzare. Però si può, eh? Ci sono di solito, quelle volte che mi è capitato di farlo, ci sono stati dei programmini per farlo, perché non era... Sì, sì. E, sempre per farlo per la nonna, chiaramente, no? La maledetta nonna. Però da quando usa Thunderbird la vita è molto più semplice, la mia. Il criptolibretto, che se volete potete comprare nel formato cartaceo o croccante, è assolutamente disponibile in formato PDF a questo indirizzo qua. Perciò se preferite prendetelo in PDF, però sostenete il nostro server, compratevelo qua a 2 euro, per favore. E, è in continua evoluzione, perciò quello che prenderete vedete che c'ha una data, ogni tanto quando cambia qualche cosa aggiorniamo la data e non è detto che poi lo stampiamo subito, perciò insomma la versione più aggiornata è sempre quella laggiù. E infine, come dice il criptolibretto, abbiamo più o meno, io avrei finito. Domande o curiosità o... Domande da tu. Fa niente. Allora, se ho la pennetta con Tails. Se ho la pennetta con Tails e nel mio computer, nel computer che c'è nella sala insegnanti della scuola, o di un posto X dove lavoro, io lo inserisco e. Cioè. E va. Nel senso. E che non l'ho mai usato Tails, per questo sto chiedendo. L'unica cosa è che ovviamente ti serve di mettere la password del wifi, diciamo, se è un computer, è un portatile o è un fisso? No, allora va e basta, in teoria. Nel senso... Allora, va e basta, avvia Tor e dunque ci saranno, se qualcuno sta monitorando il network, vedrà che c'è un... l'informatico vedrà che stai usando Tor, o meglio, che qualcuno sta usando Tor. Poi vedrà magari che tu hai cambiato IP, hai cambiato MAC address, perché di default ti cambia MAC address, e dunque di conseguenza c'è un nuovo computer, dal suo punto di vista c'è un computer nuovo che si è collegato alla rete. Però secondo me l'informatico della tua scuola non si accorgerà di niente, perché c'ha di meglio da fare che star lì a vedere se un computer cambia indirizzo IP o usa un traffico strano. Magari nelle aziende magari può essere più facile che guardino che tipo di traffico passa. E un'altra cosa, se usi Tails non fare login su qualche servizio dove invece è noto il tuo nome, perché romperesti la parte di anonimato. Cioè tipo, sei avviato, hai Tor browser e fai un po' quello che vuoi, insomma. Però puoi anche farlo, in realtà dipende qual è il tuo scopo. Se il tuo scopo è comunque quello di non far vedere alla scuola quello che stai facendo, Tails va bene, e anche se ti identifichi poi al di fuori, l'importante è che la scuola non veda dove tu stai andando o il luogo di lavoro. Certo. No, ma anche perché diverse aziende, e non so se vale anche per la scuola, ma per policy non ti permettono di usare il computer per farti i fatti tuoi, e semplicemente leggere la tua posta personale può essere visto come un farti i fatti tuoi. Quindi usare Tails ti protegge da questo punto di vista, perché il soggetto che ti controlla non vede cosa stai facendo, vede che stai facendo qualcosa ma non vede cosa stai facendo. Vieni. Io volevo chiedere una cosa ed una curiosità, cioè a me non mi piace igiene digitale, perché l'avete chiamata igiene? Cioè nel senso, volevo capire, secondo me era meglio tipo gestione digitale, salute, igiene è un po' brutto, cioè mi ricorda delle robe anche storiche un po', non lo so, cioè, apre un immaginario che volevo un po' indagare, perché l'avete scelto, visto che ci sono anche negli shoots Dan e Putro. E poi l'altra cosa che voglio chiedervi è, c'è una versione di Ubuntu o di qualcosa di simile che si può usare quando si usa lo smartphone? Cioè, al di là di usare Signal o che per la comunicazione, se c'è proprio un sistema che si poteva usare? Allora, per la... Allora, l'igiene digitale, vabbè, è nata un po' come battuta, dopodiché il concetto è, a un certo punto si è iniziato a parlare di igiene nel mondo umano fisico, non in quello digitale, nel senso che si è cominciato a dire che lavarsi le mani prima di mangiare ti evita di prenderti una brutta infezione. E noi in questo senso decliniamo l'igiene digitale, cioè per quando usi certi strumenti, lavali. Lavali, tienili puliti, abbi una politica di pulizia digitale in quello che fai e in come lo fai per evitare di prenderti le brutte malattie digitali. Non sono infettive, ma possono essere ugualmente fastidiose. Comunque era... In realtà il scritto detto si apre dicendo proprio perché igiene digitale. C'è scritto, vedi, abbiamo anche scritto, pensa a te. Sì, certo. Infatti è una cosa diversa da quella che c'è. Vedi, perché ognuno ha la sua poi di risposta, non è mica una sola. Rispetto invece al cellulare c'è stato un tentativo di... Io mi ricordo una frase di uno di quelli che contribuì al credito, che fu in effetti l'innesco dell'igiene digitale, che disse, a un certo punto, perché stavamo ragionando, e disse: io sono stufo di dire alla gente, perché mi ricordo questa frase, di dire alla gente che se si butta dal balcone si fa male, basta, cioè, basta dire questa cosa, basta chiamare l'autodifesa, eccetera, eccetera, voglio chiamare igiene. E così cominciamo a chiamare l'igiene. Però grazie del suggerimento, indaghiamo un attimino se la cosa sia sostenibile a lungo termine, a parte la battuta, insomma. Sì, che non diventi sterilizzazione, insomma. Capisco. Noi siamo per una sana igiene, non per una sterilizzazione che fa male. Un po' di batteri ci vogliono, pochi, sotto controllo. Rispetto al telefonino, mi sembra Ubuntu aveva fatto la sua versione di Ubuntu Phone, non è mai decollata. L'unica possibilità concreta che si è diffusa abbastanza è quella di usare quella che oggi si chiama Lineage OS, che prima si chiamava CyanogenMod. Questi hanno preso il sorgente di... stiamo parlando... allora, sul mondo Apple, no. Ciao. Mondo Apple, ciao. Mondo Android, qualcuno ha preso i sorgenti di Android e ha fatto la sua versione di Android. È un po' meglio rispetto alla versione che ti viene data dal produttore che compri, perché anche i produttori dei cellulari prendono Android e fanno la loro versione di Android, perché quando tu ti installi il cellulare di una certa marca e dentro ci trovi già certe applicazioni tipo quelle della Telecom, perché hai comprato il cellulare brandizzato Telecom, quella non c'è finita per caso, c'è finita perché qualcuno ti ha messo dentro un'applicazione in più di cui tu magari faresti volentieri a meno, perché non sai cosa fa quell'applicazione lì. Ecco, diciamo che il mondo Lineage OS c'è tutta una community di gente che per ogni cellulare produce una versione di Android per quel cellulare lì, perché ogni cellulare ha la sua versione specifica, per cui non è disponibile per tutti i cellulari del mondo. C'è un sito dove c'è scritto quali cellulari ti permettono di installare Lineage. Il vantaggio qual è? È sicuramente una distribuzione un po' più pulita. Ha dentro ancora, no, non ha dentro i servizi Google, ma li puoi aggiungere, volendo, per cui volendo parti da un sistema che non ha il Play Store, non ha Google Mail, non ha Google Maps, non ha niente di Google. È certo che però lo svantaggio è che fa la metà delle cose che fa uno smartphone con sui servizi di Google. Quindi dipende da cosa cerchi, però si può, è sbatta. E l'altro vantaggio, o per alcuni svantaggio, è che diventi amministratore del dispositivo che hai pagato a caro prezzo e che non ti fa fare niente se non diventi amministratore. Cioè, tu hai comprato un cellulare e non potete disinstallare certe applicazioni, eppure il cellulare è vostro. Se installate Lineage OS dovete installare anche una recovery, che qui però si apre tutto un mondo, tutto un altro seminario di 3 ore, che magari prima o poi qualcuno farà l'hack meeting per spiegare per bene come si fa. Huawei sta cercando una sua soluzione. Non so se ci piacerà, però. Grazie. Se non ci sono altre domande, grazie a voi, o se ci sono domande diteci, insomma. Grazie, ciao. Allora, normalmente una distribuzione Linux riceve aggiornamenti giorno sì, un giorno no. Normalmente sono attivati che voi potete decidere se scaricare gli aggiornamenti tutti i giorni, digli di installarli automaticamente senza chiedervi niente, oppure scaricarli e decidete voi quando installarli, ok. Normalmente gli aggiornamenti dei singoli software non sono problematici e in genere migliorano, perché sono a volte correzioni di problemi dello specifico software. Quelli un po' più critici sono gli aggiornamenti di versione, dove a un certo punto esce una nuova versione di Debian o di Ubuntu e vi trovate con qualche decina, se non di più, anche centinaia di pacchetti da scaricare e aggiornare. Lì ogni tanto succedono casini. Soprattutto con Ubuntu mi è capitato un paio di volte, per cui tendenzialmente quando c'è un aggiornamento di versione io il giorno che esce non lo faccio, io aspetto 2 settimane che emergano eventuali problemi grossi e nel frattempo magari li risolvono. Invece gli aggiornamenti dei software, quelli normali, quelli li faccio giornalmente. Ma tu dici che avevi problemi perché in particolare? Cioè si rompe. Di che sistema operativo parli, per curiosità? Di che sistema operativo stiamo parlando, per cui? Di Linux Mint, ok. Vi posso dire un'opinione mia. Se la macchina non è collegata a internet, non aggiornarla. Va bene così, continuerà a fare le cose che faceva e probabilmente non la spegnere neanche, continuerà a stare accesa. No, praticamente è buffo ma è vero, cioè se la lascia accesa funzionerà. Però se proprio la devi accendere e spegnere, non aggiornare, continuerà. Se invece la macchina è continuamente collegata a internet e usa dei programmi per navigare anche semplicemente, sì, purtroppo va aggiornata. Sono due tipologie di aggiornamenti, gli aggiornamenti di sicurezza e quelli non. Gli aggiornamenti di sicurezza diciamo che si potrebbero mettere in automatico, del tipo non me lo chiedere neanche, falli semplicemente. E credo che sia anche una default policy di Linux Mint, ma non sono certo. Gli aggiornamenti invece non di sicurezza, potresti anche non aggiornarli e eviterai che più facilmente che si rompa qualcosa. Linux Mint ogni tanto credo che si rompa perché mischia repository di Ubuntu, di Debian. Essendo figlia essendo figlia di una figlia di un'altra distribuzione, magari fa un po' più di confusione da questo punto di vista, però io non l'ho mai usata Mint, non lo so. Io l'ho usato ogni tanto, no, non davvero io, più che altro l'ho installata in giro. Come tendenza attivavo i repository di sicurezza, fallo senza chiedere niente all'insaputa, cioè tipo fallo e basta. E tutto il resto no. Di solito non mi chiamano più, perciò va bene. Thank you.